Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Finalmente la Corte di Strasburgo ha potuto mettere in evidenza la dissonanza tra pretesi diritti di molti e imposizione subita da pochi. Sotto la prevaricazione religiosa, gli italiani vivono l'esistenza della vita, trascinandosi da un Natale all'altro, dal battesimo all'estrema unzione, tra una santificazione e una beatificazione, senza meditare sul rapporto sociale. La fede prevale sulla razionalità e tiene le sue vittime sotto il tallone del potere di Madre Chiesa. Gli sforzi dei padri costituenti non riescono a opporsi al potere d'Oltretevere. Finché non si sanerà l'articolo 7 della Costituzione, che al secondo comma dice tuttora che i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi, saremo sempre in balia di qualcosa che di fatto non dovrebbe più esistere. E viviamo una contraddizione tra la revisione del 1984 e il testo della Costituzione. Se la Costituzione ha prevalenza su tutte le leggi, ne consegue che la revisione sia anticostituzionale. Per renderla costituzionale bisogna rivedere il testo costituzionale e con l'aria che tira nessun governo, se vuole sopravvivere, se ne prenderà carico. Le chiese sono sempre più vuote, ma purtroppo gli italiani sono sempre più ciechi e sordi. Ci abbeveriamo alle verità dei maghi che fanno ascolti, ma che purtroppo servono solo allo scopo di annebbiare le coscienze. Meditiamo, gente. Gioacchino. Non sarebbe più utile ricordare chi ha messo il crocifisso negli uffici pubblici e nelle scuole? Non è stata forse una legge di Mussolini firmata dal re Vittorio Emanuele II? E prima, dove erano le nostre radici? Sono cristiana praticante, ma preferisco pensare a Cristo crocifisso, persona vivente, principio e fine della mia fede, che a un oggetto. Anna. La storia si ripete. Come 2000 anni fa, oggi la civiltà ha scelto tra il crocifisso e Barabba. Stefano. Vorrei intervenire brevemente in merito al tema del test antidroga nei confronti dei parlamentari. Secondo il mio modesto parere, oggi, con il dilagarsi delle droghe, è assolutamente necessario che i pubblici dipendenti debbano sottoporsi a un test antidroga. Io sono un militare e sono un pubblico dipendente, sottoposto a controlli periodici di ogni tipo, ovviamente anche perché maneggio armi. Così come me, sono pubblici dipendenti anche un maestro o un professore di liceo, eccetera. Perché non dovrebbero anche loro essere sottoposti ad un semplice test? Non è forse necessario tutelare i nostri figli? O è più semplice scandalizzarsi dopo averlo scoperto? Alla stessa stregua, sottoporrei al test anche i parlamentari o politici in genere, che per farsi eleggere fanno della morale e predicano correttezza, e poi ci dimostrano quanto valgono. Perché non introdurre per legge un semplice certificato medico di idoneità? Maurizio. Riguardo al test sulla droga, io la penso così. Io farei ai parlamentari un test unico dei capelli che, da quello che ho capito, ha valore retroattivo di mesi. Il risultato del test non dovrebbe portare nessuna conseguenza legale, ma dovrebbe essere reso pubblico, non per una questione morale o per implicare che un parlamentare che ha usato droghe non possa legiferare, ma semplicemente per verificare la coerenza dei parlamentari. Mi piacerebbe sapere se chi vota per leggi repressive per gli altri è indulgente verso se stesso, specie alla luce di casi come quello di Stefano Cucchi e di Aldo Branzino, entrambi morti in carcere in circostanze ancora da chiarire. Ovviamente fare questi test è una cosa tecnicamente possibile, ma che credo non sarà mai fatta. Massimo. Anch'io faccio parte di quell'8% che ritiene che il controllo antidroga dei parlamentari sia solo una boutade politica. Basterebbe fare come negli Stati Uniti. Chi vuole essere eletto deve fornire tutti i suoi dati, anche quelli sensibili, in merito alla sua fortuna personale. Rami di parentela, fedina penale e stato fisico-mentale compreso se fa o ha fatto uso di droghe leggere o pesanti. Se fornisce dichiarazioni mendaci, decade automaticamente dalla carica, quale essa sia. Non vi pare una formula semplice applicabile anche in Italia? Osvaldo. Premetto che non sono favorevole al test antidroga ai parlamentari. Se fosse possibile esprimere le preferenze in cabina di voto, potrebbe avere senso un test antidroga come prerequisito per candidarsi, ma una volta eletti e per lo più senza preferenze, Che senso ha sapere che la frittata ormai è fatta? Ognuno è libero di fare quello che vuole, di ubriacarsi o di buttarsi da una montagna con un paracadute, ma c'è una cosa però che non andrebbe fatta. Drogarsi. Non sono un moralista e penso che la libertà di fare del proprio corpo quello che si vuole sia fondamentale per l'umanità. Ma essendo alcune droghe illegali, è implicito che chi le consuma, pur non commettendo un reato, sta indirettamente finanziando i criminali che gestiscono l'approvvigionamento e la distribuzione delle stesse. Questa cosa rende un controsenso il fatto che da un lato chi ci governa spenda milioni di euro per finanziare la lotta alla criminalità, mentre dall'altro finanzia la stessa, consumando prodotti e servizi da essa forniti. Non voglio convincere nessuno quindi che i test siano da fare, ma non sono nemmeno contrario a sapere che una persona che io pago per decidere del mio futuro e che magari in futuro potrò decidere se eleggere o meno, abbia finanziato in qualche modo i nemici dello Stato. Sergio. Caro direttore, chi come me ha una piccola azienda con pochi dipendenti sa benissimo che parlare di ripresa è un tantino azzardato. Ci si è dimenticati in fretta del milione di posti che sono a rischio per fine anno. Io mi guardo attorno e vedo la mia smilza pila di ordini. Poi vedo le mail che annunciano aumenti dei prezzi di ferro, inox e altre materie prime. E infine vedo la pratica del rientro obbligato che una banca mi ha imposto. Io non sono un pessimista per natura, ma questo truccare le notizie può solo farci del male. La gente deve sapere che siamo nel mezzo della tempesta e se ci fanno navigare con le coordinate sbagliate, di sicuro sbatteremo sugli scogli. Moreno. Non è necessario essere economisti per capire che con la crisi in atto e il colossale debito pubblico, far quadrare i conti delle nostre finanze diventa quasi impossibile. Temo che bisognerà inventare nuove gabelle. È altresì inimmaginabile che si pensi a tassare chi della crisi già soffre, disoccupati, cassintegrati, precari o chi ha un posto di lavoro che vacilla. C'è una sola categoria di lavoratori che gode di buona salute, i dipendenti dello Stato. Perché non far pagare loro una tassa di solidarietà? In fondo si tratta di privilegiati che non hanno mai avuto né avranno problemi simili a quelli dei cittadini citati. Qualcuno di loro potrebbe addirittura aver avuto qualche vantaggio, diretto o indiretto, dalla crisi. Vedi la rimodulazione dei mutui, i bonus a familiari, eccetera. Non sarebbe poi così scandaloso sottrarre una piccola percentuale dei loro sicuri stipendi. Franco, provincia di Milano. Egregio direttore, sono un affezionato ascoltatore di Radio 24 e ne apprezzo molto la quasi imparzialità politica. Qualche giorno fa un ascoltatore le chiedeva un giudizio sulle riforme realizzate dal governo. Mi spiace constatare come nella sua risposta, indicando le varie riforme che sono ancora da fare, lei abbia omesso quella della giustizia. Questo vuol dire che lei è soddisfatto della giustizia attuale? In caso contrario, si tratta di semplice dimenticanza o di timore reverenziale nei confronti di questi giudici super partes? Domenico. Caro Domenico, nella mia risposta ho accennato alcune riforme, sottolineando soprattutto gli aspetti economici. Non voleva certo essere un elenco completo, anche perché, come lei giustamente sottolinea, quella della giustizia deve comunque essere al primo posto nell'attenzione del governo e del Parlamento. Ma non perché il Presidente del Consiglio deve risolvere qualche problema personale dopo l'annullamento del lodo Alfano. La riforma della giustizia è importante perché l'Italia non può più permettersi tempi così lunghi per i processi. Nella giustizia civile l'attesa media per una sentenza di primo grado è di 960 giorni, che diventano 1500 per una sentenza di appello, e i processi pendenti sono quasi 5 milioni e mezzo. Nella giustizia penale i giorni per una sentenza di primo grado sono 420 e i processi pendenti sono 3 milioni e 600 mila. Sono numeri che non possono che suscitare allarme e che dimostrano come sia urgente spezzare un sistema che vede i magistrati e anche gli avvocati in strenua difesa delle proprie prerogative, che spesso possono essere considerati privilegi. Una maggiore efficienza darebbe anche maggiore dignità agli stessi magistrati. No, quindi, a riforme ad personam. L'Italia ha bisogno di tornare ad avere fiducia nella certezza del diritto, ma per tutti. Gentili signori, viviamo in un'epoca nella quale diamo molta attenzione ai cibi, che devono essere buoni e soprattutto genuini, magari biologici. Ecco così fiorire DOC, DOCG, IGT, certificazioni biologiche di tutti i generi. E mangiamo lenticchie di un certo posto, accompagnate da vini rigorosamente di quell'altro, magari dopo un bel bagno di fieno, ma di quel fieno particolare che viene da un campo speciale. Il tutto per tutelarci e per essere nel segno della genuinità, della sincerità dei prodotti. Ovviamente aborriamo i cibi transgenici. Non è anacronistico, allora, che quando affrontiamo l'altro lato viscerale della vita, i rapporti sessuali, molti, moltissimi di quelli che sono dei talebani del biologico, del genuino, del sincero, indulgano invece al contraffatto, al transgenico, al falso. Lo dicono le statistiche, secondo le quali ormai in Italia il numero dei transgender, delle drag queen e quant'altro sarebbe superiore a quello delle biologiche e genuine meretrici d'antan. Giordano, un ascoltatore fuori dal tempo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.